Joy di Marta. Un giorno, con mio padre e due mie sorelle, stavamo attraversando il James Bay Bridge a Victoria. Incontrammo una vecchia indiana dal viso allegro con un bambino bianco dai capelli chiari che aveva circa la mia età. Mio padre disse: "Ciao Joy!" E alla donna disse: "Come va Marta?" Papà aveva regalato a ciascuna di noi un cioccolatino tondo piatto, incartato come un dollaro nella carta argentata. Lo tenevamo da parte per mangiarlo al ritorno a casa. Mio padre disse: "Chi di voi vorrà donare il suo cioccolato a Jay?" Ci offrimmo tutte e tre. Papà prese il mio perché ero la più piccola e la più golosa delle sue bambine. Il ragazzo lo prese dalla mia mano timidamente, ma Marta mi fece un sorriso così ampio che mi sentii molto generosa. Dopo che furono andati, chiesi: "Padre, chi è Joey?" "Joey", disse mio padre, "fu abbandonato ancora piccolo a casa dell'indiana Marta. Una notte buia di tempesta, un uomo e una donna bussarono alla sua porta, le chiesero se poteva tenere il bambino al riparo dalla pioggia mentre loro andavano a fare una commissione. Dissero che sarebbero tornati presto, ma non vennero mai più, anche se Marta continuò ad aspettarli e a prendersi cura del bambino. Lavò i bei vestiti con cui era stato vestito e li portò al sacerdote, ma nessuno riuscì a scoprire nulla sulla coppia che aveva abbandonato il bambino. Marta non aveva figli e si affezionò molto al ragazzo. Lo vestì con abiti indiani e lo prese come suo e lo chiamò Jay. Ho pensato spesso a ciò che mio padre ci aveva detto di Joey. Un giorno la mamma mi disse che potevo accompagnarla e andammo in una piccola capanna in un campo verde dove pascolavano delle mucche. Era lì che viveva Marta. Bussammo alla porta, ma non ci fu risposta. Mentre stavamo lì, sentivamo qualcuno dentro la casa che si lamentava e gridava. La mamma aprì la porta ed entrammo. Marta era seduta sul pavimento, i capelli scarmigliati, il viso gonfio per il pianto. Le cose buttate alla rinfusa sul pavimento come se non le importasse più nulla. Riusciva solo a stare seduta, dondolando avanti e indietro e gridando: "Gioia mio! Gioia mio! Gioia mio!" Mia madre depose alcune cose belle sul pavimento accanto a lei, ma lei non le guardò nemmeno. Continuava a piangere, a lamentarsi. La mamma si chinò su Marta, le accarezzò la spalla e le disse qualcosa, ma non servì a nulla. Singhiozzava troppo forte per ascoltare. Credo che non si rendesse nemmeno conto che eravamo lì. Il gatto, miagolando, venne a chiederci cibo. La casa era fredda. La mamma piangeva pure lei quando venimmo via. "Joey è morto, mamma?" "No, lo hanno tolto a Marta i sacerdoti e lo hanno mandato a scuola." "Perché non poteva restare con Marta e andare a scuola con gli altri ragazzi indiani?" "Joey non è un indiano, è un ragazzo bianco. Marta non è sua madre." "Ma la madre di Joey non lo voleva. Lo abbandonò a Marta. E questo lo ha reso suo figlio. È suo. È bestiale da parte del prete rubarlo a Marta." Marta pianse finché non ebbe più lacrime e poi morì. Acqua salata. Alle 5 di quel mattino di luglio il mare, il cielo e la spiaggia di Skye Gate erano levigate e rosee. Non c'erano né orizzonte, né nuvole, né suoni. Di quel silenzio rosee diffuso persino io ero diventata parte, appartenendo tanto al cielo quanto alla terra, tanto al sonno quanto alla veglia, mentre andavo incespicando sulle sabbie di Skye Gate. Sulla riva dello stretto mi aspettavano alcuni indiani, un uomo e i suoi giovani nipoti. Erano accanto alla piccola canoa che ci avrebbe portati a una fantomatica barca a gas che galleggiava lontana dalla baia. Stavo andando in tre vecchi villaggi abbandonati dagli indiani della Columbia Britannica per poter fare degli schizzi. Sarei stata via per 5 giorni. "Il mattino è buono", dissi all'indiano. "Ah ah", annuì lui. Il ragazzo e la ragazza indietreggiarono timidamente, sorridendo, sussurrando commenti gutturali sul mio ginger pop, il cagnolino che trotterellava al mio fianco. Obbedendo a un grugnito e a un dito puntato, presi posto nella canoa e fui condotta alla barca a gas. Mentre salivo a bordo, la canoa si inclinò in modo irritante, formando una grande O rotonda sull'acqua cristallina. Guardai la O appiattirsi e tornare liscia. L'uomo andò a prendere la bambina e il bambino, il cibo e le coperte. Avevo già visitato una volta questi tre villaggi, Skedans, Tanu e Kamshewa. Il dolce amaro della loro opprimente solitudine mi aveva fatto nascere il desiderio di tornarci. L'indiano non aveva mai cercato di ostacolare la crescita verde che si stava sviluppando in loro in modo così straordinario. Si era solo stabilito lì per un po', sfruttando ciò che gli serviva e lasciando il resto come era sempre stato. La civiltà si avvicinava e l'indiano le andava incontro, abbandonando i suoi vecchi rifugi. Poi l'impeto della crescita selvaggia piombò e divorò tutto ciò che le era estraneo. Rapidamente stava cancellando ogni traccia dell'uomo. Ora rimanevano solo alcune assi di cedro sbozzate a mano e travi del tetto cresciute nel muschio e cadenti, e alcuni pali totemici ingrigiti e spaccati. Eravamo in mare da appena un'ora quando il rosa si trasformò in piombo, la nebbia grigia ci avvolse e il mare cominciò a contrarsi in onde verde scuro. Gli indiani entrarono nella cabina della barca. Io preferii restare all'aperto. Seduta su una cassa, appoggiata alla parete della cabina, mi sentivo davvero male. Non c'era il parapetto. Le onde diventavano sempre più grandi e violente e si gettavano avide su di me. Misi il cane nella sua gabbia da viaggio e lo portai sotto. Presto iniziammo ad andare su e giù tra vallate e colline di acqua agitata. Riuscivo a malapena a mantenere la presa sulla cassa. Sembrava che le mie vene fossero piene di acqua di mare anziché di sangue e che la mia testa si fosse svuotata. Dopo 7 ore di queste sofferenze, il motore fu spento fuori dalla baia di Skedans. L'indiano gettò l'ancora in mare. Il mio cuore si tuffò con lei per trovare il fondo, perché la nebbia si era trasformata in pioggia e Skedans ci appariva sulla riva sfocata e poco invitante. «La barca non può avvicinarsi?» L'indiano scosse la testa. «Non si può. Il fondale è pericoloso per la barca». Sapevo che nella baia di Skedans c'erano banchi di alghe e scogli sommersi che potevano danneggiare il fondo delle barche. «Mangiare adesso?» chiese l'uomo. «No, voglio andare a terra», risposi. La canoa cigolò sul ponte della barca. Le onde la ingoiarono con una sferzata rabbiosa. L'indiano guidò tra i kelp. Le teste dei kelp delle alghe ci sciaguattavano intorno con i piatti filamenti marroni che spuntavano dalle loro chiome e fluttuavano sulle onde come lunghi capelli. Il mare sbatteva violentemente contro la nostra canoa. Più e più volte fummo lì lì per annegare. Quando finalmente approdammo, la terra era poco meno fradicia del mare. L'acqua piovana non corrodeva come quella salata, ma bagnava di più. L'indiano riuscì ad accendere un grande fuoco per me sulla spiaggia, poi tornò alla sua barca a gas e un muro di nebbia e pioggia mi isolò dagli altri esseri umani. Skedans, in una giornata di tempesta, aveva un aspetto minaccioso. A destra della baia, subito dietro la scogliera, si ergevano un paio di rozze colline a forma di cono con le cime coperte da nuvole basse. Queste colline, sgraziate, erano piene di alberi, tranne dove profonde cicatrici nude correvano lungo i loro fianchi, come se un mostro crudele le avesse strappate dalla cima alla base. Dietro queste due colline il mare si insinuava nella costa così profondamente da lasciare solo uno stretto lembo di terra, e la forza delle onde che si abbattevano sulle rive davanti e dietro al villaggio rompeva il silenzio della vecchia abbandonata Skedans. Il vento soffiava sulla vegetazione alta fino al petto intorno alle magre rovine, ancora più desolate per essere state abbandonate. Una fila di pali totemici appuntiti era allineata lungo la riva bassa che costeggiava la baia di Skedans. I pali erano piantati in profondità per sfidare le tempeste. Alle loro estremità superiori, scolorite e vuote, si trovavano bare incastrate nei pali con pesanti assi di cedro e il simbolo delle ossa che un tempo erano appartenute a un capo del clan dell'aquila, dell'orso o della balena. Nella barca a gas ancorata, la ragazza indiana soffriva il mal di mare, così la portarono a terra. La lasciai accanto al fuoco e vagai fino all'estremità della baia. Il mio cagnolino era ancora sulla barca a gas e sentii la mancanza del suo trotterellare accanto alla mia caviglia, perché il luogo era molto desolato, fradicio di pioggia e di mare che sferzava e strappava tutto ciò che riusciva a raggiungere, scagliando grandi onde che poi rotolavano indietro e tornavano a colpire con ancora più violenza. Improvvisamente, al di sopra del frastuono, si levò un grido umano. La ragazza mi stava facendo un cenno selvaggio. La barca dello zio! Gridò. Sta andando verso la barriera corallina! Vidi la barca a gas che si dirigeva verso il suo destino. Vidi l'indiano nella piccola canoa che lottava per raggiungere la riva con le nostre lenzuola e il cibo. Ascolta! Gridò la ragazza. È mio fratello! Grida terrorizzate provenienti dalla barca a gas trafiggevano il tumulto. Zio! Zio! L'uomo gettò a riva il cibo e le coperte senza far avvicinare la canoa, poi si tuffò tra le onde, trainandola come un cane al guinzaglio. Mi fece cenno di avvicinarmi fin dove le onde me lo avessero permesso. L'acqua è cattiva! Forse non riuscirò a tornare! Abbi cura della mia ragazza! Gridò e se ne andò. Spingendoci fino alla punta, sopra la barriera corallina, assistemmo alla lotta tra la canoa e il mare. Quando l'indiano raggiunse la barca a gas, le urla del ragazzo cessarono. Con grande rischio cominciarono a caricare la canoa, ma questa cominciò a imbarcare acqua. Il ragazzo si slanciava furiosamente, l'uomo sfidava la morte, cercando di remare ostinatamente, centimetro dopo centimetro, onda dopo onda. Ci furono momenti eterni in cui la furia del mare era ovunque. La ragazza nascose il viso sulla mia spalla e urlò. Fissai e fissai, guardando per raccontare agli indiani del villaggio natale cosa aveva fatto il mare ai loro uomini e ragazzi, come li aveva risucchiati più e più volte, in terribili avvallamenti e alte mura di onde, così follemente agitate che la canoa non riusciva a muoversi, nonostante quel remare disperato. Poi, un demone marino la scaraventò su una cresta e un altro la fece precipitare di nuovo. Il mare la voleva ingoiare, ma lei sopravviveva. Poi un grande flutto scaraventò la barca sulla spiaggia con l'ira di un bambino viziato che getta via un giocattolo prima tanto desiderato. Il ragazzo balzò fuori in fretta. L'uomo fece qualche passo a fatica tra la schiuma e cadde a faccia in giù. Lo trascinammo dentro. Il suo volto era violaceo. Sta morendo. No, la vita tornò con singhiozzi laceranti. Tra la nostra roba fradicia c'era una lattina di latte, un'altra di fagioli. Le riscaldammo e ci diedero un po' di energia. Stava arrivando la notte. Ci preparammo come potevamo, stendendo una tenda su un grande tronco e asciugando le coperte. Non mancava la legna per il fuoco. Il cuore dell'indiano era addolorato per la sua barca. Sembrava che nulla potesse salvarla. Ora andava alla deriva più lentamente, con l'elica imprigionata nelle alghe. Il mio cuore era dolorante per il mio cagnolino nella sua scatola, sulla barca condannata. Ognuno di noi prese il suo dolore e lo portò a un'estremità della baia. All'improvviso il piccolo gruppo mesto, sulla punta più lontana, si animò. Sentii un coro di grida. Vidi l'uomo spogliarsi dei pantaloni di pelle, legarli a un palo e cominciare a sventolarli. Mi affrettai a raggiungerli, ma trovai gli indiani di nuovo sconfortati e disperati. La barca, visto che eravamo indiani, non si è fermata, disse l'uomo con amarezza. Le barche da pesca si affrettavano a mettersi al riparo. Poche venivano verso di noi. Non c'era rifugio nella baia di Skedans. Non potevo fare a meno di sperare che nessuno vedesse il nostro segnale di soccorso. Solo il pensiero di uscire in quel mare terribile mi terrorizzava. Un peschereccio norvegese, tuttavia, ci avvistò. Si fermò e mandò a terra due piccole imbarcazioni. Una andò in soccorso della barca a gas dell'indiano alla deriva e l'altra venne da noi. Vi prego, lasciateci qui sulla terraferma, implorai. Gli indiani cominciarono a mettere di corsa le nostre cose nella barca norvegese e i grandi marinai norvegesi con le barbe lunghe come briganti dissero: Presto, presto! Io ero sulla riva, nel punto in cui la terra e il mare litigavano ferocemente. Il bollitore del tè era nella mia mano. Aspettate! Ruggii sopra il frastuono delle onde, vedendo che stavo per essere scaraventata nella barca senza tanti complimenti. Aspettate! Infilai una mano in tasca, tirai fuori una scatola di pastiglie contro il mal di mare, scartai una pillola, la misi sulla lingua e bevi un sorso direttamente dal beccuccio del bollitore. Poi lasciai che mi mettessero sulla barca dei norvegesi. Era larga e con il fondo piatto, era come attraversare la bolgia su una pala. La pastiglia era del tutto inutile. Quando riuscirono, legarono la barca a gas salvata alla poppa del peschereccio e ci trascinarono a bordo. Quando mi deposero ansimante sul ponte, mi rovesciai sopra il boccaporto del pesce e rimasi lì distesa, piatta come una stella marina. Rovistando tra le mie cose, la ragazza indiana prese un ombrellino giallo e una grande tazza di latta, ma l'ombrellino volò fuori bordo e la tazza arrivò troppo tardi, cadde sferragliando sul ponte. Essendo ormai al di là di ogni resistenza, non feci alcuno sforzo per recuperarla. Le onde gorgogliavano e sbattevano intorno al boccaporto, che era un metro più alto del ponte. Gli spruzzi mi inondavano, il sapore del mare era sulle mie labbra. Il capitano ordinò «Tutti sotto!» e tutti si precipitarono ad obbedire, tranne me. Io giacevo in mezzo al tumulto, con tutto che si agitava e si frantumava intorno e la mia testa non aveva più coscienza di una medusa. Poi il capitano attraversò il ponte, mi prese in braccio come una bambina e mi scaricò nella cuccetta della sua cabina. Sono sicura che doveva essere proprio sopra la caldaia, perché non ho mai sentito così caldo in vita mia. Uno dopo l'altro i miei sensi si spensero come se qualcuno avesse premuto dei bottoni. Quando mi svegliai, mi sembrò quasi impossibile che si trattasse della stessa barca o dello stesso mare, o che io stessa fossi sdraiata immobile sopra un motore che faceva le fusa dolcemente, contento come un vecchio gatto. Poi vidi che la ragazza indiana era accanto a me. «Dove siamo?» «Non lo so». «Dove ci stanno portando?» «Non lo so». «Che ora è?» «Non lo so». «Il mio cane è al sicuro?» «Non lo so». Rivolsi la mia attenzione alla cabina del capitano, illuminata vagamente dalla lanterna del ponte. Dalla finestra potevo vedere la costa scura vicino a noi. All'improvviso non c'era più luce nella stanza perché il capitano si affacciò alla porta e disse, con la stessa disinvoltura con cui raccoglieva i naufraghi dalle spiagge la maggior parte delle notti, «Mancano pochi minuti a mezzanotte, poi ti farò scendere ai barconi». «I barconi?» «Sì, i barconi ormeggiati nell'insenatura di Kamshewa per scaricare il pescato». «E cosa farò io lì?» «Beh, quando le barche sono piene arrivano gli imballatori e le trainano verso i conservifici». «E io devo sedermi in mezzo ai pesci e aspettare un imballatore?» «Beh, l'idea è quella». «E quanto tempo ci vorrà prima che ne arrivi uno?» «Chiedilo al pesce». «Immagino che ci saranno anche gli indiani». «No, loro li rimorchiamo più in là. Il loro motore è rotto». Ore solitarie e interminabili in una di quelle orribili barche dal muso quadrato che puzzano di pesce. Sopportai quei freddi orrori che mi strisciavano intorno per un tempo interminabile prima che le corde di traino si tendessero e partissimo per il conservificio. Lì gli uomini con le aste chiodate sciamavano nella scialuppa e agganciavano ogni pesce sotto le branchie. Le creature sfrecciavano nell'aria come strisce d'argento, atterravano negli scivoli del conservificio con tonfi viscidi e passavano ai coltelli da squartamento. La voce del capitano mi distolse da quei pensieri disgustosi. «Eccoci qua!» Mi guardò, si grattò la testa e aggrottò le sopracciglia. «Eccoci qua!» ripeté. «E ora che diavolo facciamo?» «C'è una piccola cabina sul peschereccio principale che resta ancorato qui in modo permanente. Ma i due uomini che ci vivono saranno stati completamente fuori in queste ore. Dubito che sirene, colpi di vento o altro possano svegliarli. Beh, vediamo cosa posso fare». Scomparve al suono della campana della locomotiva. La ragazza indiana, senza salutare, andò a raggiungere lo zio. Il capitano tornò esultante. «C'è un peschereccio giapponese legato alla prua. Il suo capitano scenderà con i suoi uomini e vi lascerà la sua cuccetta fino alle 4 del mattino. Poi dovrete sgomberare, ma intanto c'è tempo. Andiamo!» Seguì la sua lanterna tremolante lungo una successione di tavole strette montate su cavalletti, con un senso di vertigine, come se stessi camminando su una corda tesa nel buio della notte. Passammo davanti a 3 cubi neri, l'odore dei pesci ci balzava addosso dalle loro profondità, e quando le assi terminarono, il capitano disse: "Salta!" Obbedì, atterrando sul pavimento di una buca da cui fuoriuscivano terrificanti ringhi. Rotolammo su strani oggetti. Il pomello della porta della cabina sembrava un occhio senza pupilla quando la luce della lanterna ne catturava lo sguardo morto. Ci arrampicammo sul lato opposto della buca del peschereccio e quindi sul battello giapponese, 3 gradini più in alto, ed eravamo nella cabina di pilotaggio. C'era una panca corta e stretta dietro il timone. Sarebbe stato il mio letto. Su di essa c'era il mio rotolo di coperte umide, il mio sacco per gli schizzi e la scatola di Ginger Pop, il mio cagnolino, con dentro lui, pazzo di gioia, che mi restituì felicità e speranza. Il nuovo giorno si affacciò alla mia coscienza sotto i colpi del capitano giapponese. Ringraziai il mio ospite per la scomoda notte che, se non fosse stato per la sua gentilezza, sarebbe stata molto peggiore, e saltai con fatica dalla barca alla lancia. Sembrava che ora non avessi più voce in capitolo di un salmone riguardo la mia persona. Non avevo preso accordi, non possedevo né biglietto né lasciapassare né francobollo. Ero solo un pacco che qualcuno aveva chiesto a qualcun altro di scaricare da qualche parte. Al rumore del mio atterraggio sul fondo della chiatta, la porta della cabina si aprì e la luce gialla della lampada trapelò su una serie di oggetti sul ponte. 2 uomini sbirciavano dalla porta. Qualcuno li aveva avvertiti del mio arrivo. I letti erano stati rifatti, la cabina era stata riordinata e sul tavolo c'erano biscotti caldi e caffè. Buongiorno, temo di essere una seccatura, mi dispiace, dissi io. Niente affatto proprio, si arrese prima di ammetterlo e disse: La colazione è pronta, le stoviglie sono scarse, ma c'è un sacco di cibo, un sacco di cibo. Oh, un bel cucciolo, disse indicando il mio cane. Come si chiama? Ginger Pop. Ah, ah, ah, fece una grossa risata rotonda. Che nome, che cucciolo, eh? La piccola stanza era di legno grezzo. Conteneva 2 pezzi di tutto: 2 stoviglie, 2 sedie, 2 letti, 2 uomini, una stufa e un tavolo. Prima noi, disse il più grosso e discorsivo dei due. Mi fece cenno di sedermi su una delle sedie e prese l'altra. Questo qui, indicando la faccia cupa dell'uomo vicino alla stufa, è Jones. Lui è il cuoco. Io sono Smith. Dissi loro chi ero io, ma sapevano già tutto di noi. Le notizie viaggiano velocemente in superficie. Il cibo caldo aveva un sapore delizioso. Alla fine consegnammo le stoviglie a Jones. Ora che hai mangiato bene, disse Smith, vorresti dormire? Oh, mi piacerebbe molto dormire, risposi. E senza altri indugi mi levai cappello, stivali di gomma e tutto il resto e salii sul letto di Smith. Ginger Pop si buttò sul mio petto con il naso infilato sotto il mio mento. Io allontanai il cappello dal viso e il cane cominciò subito a russare. Smith pensò che fossi io. Povera anima stanca morta, sussurrò a Jones, ma gli fu risposto con un grugnito: Se l'è cercata. Era quasi mezzogiorno quando mi svegliai. Non riuscivo a infilarmi sotto il cappello. La cabina era una bolgia. Jones, disteso sul suo letto, russava. Smith, sul pavimento, con il mio sacco da disegno come cuscino, russava lui pure. Ginger Pop, sotto il mio mento, russava pure lui. Le pareti facevano rimbalzare il terribile coro di ronfi da una parete all'altra. Scivolando giù dal letto e scavalcando Smith, uscii dalla cabina nella piena luce di un mezzogiorno di luglio che si estendeva generosamente sull'insenatura di Kamshewa. Le rive vicine erano piene di alberi, alberi impregnati di sole. Nonostante l'affollamento, tra ogni albero e ogni foglia c'era spazio per un mistero senza limiti. Su molte delle loro cime sedeva un'aquila dalla testa calva, sazia di pesci, con il suo cappuccio bianco che strideva con il verde intenso degli abeti. Nessuna nuvola, nessun suono se non il profondo e fragoroso russare proveniente dalla cabina. Gli uomini addormentati erano lontani, lontani da qui quanto la tempesta della notte scorsa era lontana dall'insenatura. La porta della cabina scricchiolò. L'occhio bieco di Smith fece capolino per vedere se mi aveva sognata. Quando vide me e Ginger, sorrise. Sperò che fossimo riposati, sperò che avessimo fame, sperò che la cena di Johnson fosse pronta presto. Poi la porta sbatté, chiudendo se stesso e le sue speranze nella cabina. Di lì a poco uscii di nuovo, portando con sé una piccola bacinella di latta, un asciugamano grigio e un pezzo di sapone. Stava per immergersi quando il lungo collo di Jones si allungò intorno al corpo di Smith e si tuffò per primo nella bacinella con un forte sciacquio. Allora, gocciolante, si affrettò a tornare tra gli odori della carne e degli gnocchi. Smith riempì di nuovo la bacinella e si lavò con sorprendente accuratezza, considerato il suo equipaggiamento, intrattenendo nel frattempo una conversazione con me. Dopo aver buttato a mare l'ultimo sudore, riempì di nuovo la vasca, mi porse solennemente il sapone e, lucidandosi il viso come se fosse stato un pomello d'ottone, uscì con Jones e mi lasciò il posto. Cenammo nello stesso ordine in cui avevamo fatto colazione. Signor Smith, chiesi, come farò a uscire da qui? Ah, questo, rispose lui gesticolando col coltello, dipende, è nelle mani del pesce. Non hanno mani, i pesci, risposi piccata. La prigionia tra quattro pareti e due tazze da tè cominciava a farsi sentire e nessuno sembrava preoccuparsi di liberarmene. Mi scusi, signorina, parlavo in senso figurato. Intendo dire che se i pesci saranno ragionevolmente abbondanti, ci saranno le barche e dopo le barche ci saranno gli imballatori. Si rilassi e prenda altri gnocchi. Io e Ginger ci arrampicammo sulle varie barche a vela per vedere il più possibile l'insenatura. Era molto bello. A poco vedemmo la forma magra di Jones che addosso alla cabina si teneva agganciato coi piedi mentre si faceva strada oltre la casetta delle chiatte fino all'estremità. Qui si sporse e, come un mago, tirò fuori dal nulla una piccola barca. Ci scorse che guardavamo ed ebbe un pensiero felice. Poteva alleviare l'affollamento in cui stavamo. Sorrise. Vado alla sorgente. Tu e il cane volete restare a terra per un po'? Aiutò Ginger ad attraversare la sporgenza e a scendere nella barca, ma mi lasciò fare da sola, del mio meglio. Ero più grassa di Jones e il bordo della barca, oltre la cabina, era molto stretto. La stretta spiaggia era coperta dalla deriva del mare, il silenzio e il caldo la avvolgevano, poca aria saliva dall'insenatura. La fitta vegetazione della costa era impossibile da penetrare. Jones riempì i suoi secchi alla sorgente e tornò alla chiatta, lasciandoci sulla riva. Quando le ombre si fecero lunghe, tornò a prenderci. Mentre stavamo cenando, scese la notte. Ci sedemmo intorno alla lampada a carbone e olio che si trovava sul tavolo, raccontandoci storie. In fondo, a ogni mente c'era il dubbio su chi sarebbe rimasto a terra se non fosse arrivato un imballatore prima di sera. Cominciarono ad arrivare piccole barche da pesca. Uscimmo a guardarle mentre gettavano frettolosamente il pescato nelle barche e tornavano indietro per recuperarne altro. Ora c'era una grande luna luminosa, i pesci sembravano vivi e volavano nell'aria. Nei canotti scivolavano l'uno sull'altro, sbandando, arretrando sul mucchio d'argento, finché ognuno trovava un posto per riposare, per poi essere sbalzato via da qualche altro più pesante. Le piccole imbarcazioni affaccendate rompevano la calma e portavano un pizzico di freschezza dall'esterno per ricordare all'insenatura che anche lei faceva parte del grande mare salato. Ero così presa dal pesce che mi dimenticai dell'imballatore finché non sentii la voce entusiasta di Jones che gridava «Imballatore!». Corse alla credenza e trovò un osso per Ginger, mentre Smith parlava con il capitano giapponese dell'imballatore. «Sì, stava andando nella mia direzione. Mi avrebbe portato con sé». Smith mi condusse lungo lo stretto corridoio di tavole e mi affidò alle cure del capitano. Oltre a me C'era un altro passeggero, un inglese di cattivo umore, con un forte raffreddore. Poiché non c'era altro posto, fummo costretti a sederci fianco a fianco sul cuscino di peluche rosso dietro il capitano e il suo timone. Tutti erano in silenzio mentre scivolavamo sull'acqua piatta e lucente, costeggiata da catene di abeti. Le cime degli alberi sembravano interminabili picchetti stagliati contro il cielo e riflessi nell'acqua, nitidi e precisi. Il mio compagno di viaggio tossiva, ansimava, starnutiva e sniffava. Spesso si chinava in avanti e sussurrava all'orecchio del capitano. Poi il capitano si girava e mi diceva: «Vuole dormire adesso? Il mio uomo le mostrerà dove». Sapevo che era lo sniffatore a volere l'intero divano e mi aggrappai al peluche rosso come una patella. Tuttavia, quando arrivammo in alto mare, cominciammo a essere di nuovo sballottati e fui felice di essere portata via da una strana creatura. Aveva una vocina sottile, incastrata da qualche parte nei suoi organi vitali, ma il suo cappuccio era così in basso e i suoi stivali da mare così alti che il resto di lui sembrava trascurabile. Questa gentile personcina mi guidò con successo tra gli attrezzi di coperta, tenendo in mano una lanterna ed emettendo in continuazione dei piccoli suoni inarticolati. Ma il mio cuore ebbe un momento di blocco quando lui scivolò all'indietro da un piccolo portello, sprofondò in un buco e scomparve alla vista, tranne il cappuccio. «Venga pure, signora», disse quella vocina strana. C'era a malapena spazio per i nostri quattro piedi sul pavimento tra le due cuccette corte e strette che si assottigliavano in punta nella poppa della barca. Per entrare in una cuccetta bisognava prima orizzontarsi, poi ribaltarsi e rotolare. Gli stivaloni che mi avevano dato mi tenevano in equilibrio e mantenevano da parte l'attrezzatura dei pescatori, mentre mi ribaltavo, rotolavo e mi grattavo il naso sulla parte inferiore della cuccetta superiore. Le auguro di dormire bene, signora. La mia scorta e la luce erano sparite. Il buio era intenso e pesante, con un odore di pesce e catrame. Ero sotto il mare, lo sentivo scorrere dall'altra parte delle tavole sottili, accarezzando la barca al suo passaggio. Sicuramente da un momento all'altro mi sarebbe arrivato nelle orecchie. In fondo alla stretta cuccetta, una cosa che sembrava viva mi si arrampicò sulla spina dorsale. Il campanello del motore suonò e quella cosa tornò indietro. Poi il timone gemette e capii cos'era quella cosa. Era il cavo del timone. Presto la meccanica della barca sembrò essere parte di me. Aspettavo la sequenza: campana, grido, gemito, campana, grido, gemito. Erano diventati parte di me. Diverse volte durante la notte il portello scivolò indietro, una lanterna entrò nella mia tana e mani d'ombra troppo enormi per questo piccolo posto presero qualche oggetto. «Temo di bloccare i posti letto», dissi. «Ma per favore, signora, nessuno dorme quando la sera andiamo via». Galleggiavo dentro e fuori dalla coscienza e i pesci nel sogno mi entravano da un orecchio e uscivano dall'altro. Alle 3 del mattino il cavo del timone smise di suonare il pianoforte sulle mie vertebre. La barca continuava a gemere, ma non si muoveva. Qualcuno aprì il portello e mi chiamò: «Per favore, signora, il conservificio!» Io rotolai, mi raddrizzai, mi arrampicai, lo seguii. Lui portava il mio zaino da disegno e la scatola del cane. Facemmo qualche passo e poi la vibrazione del motore non fu più sotto i nostri piedi. Eravamo ritti su una specie di fondo che aveva un'inclinazione tale da ostacolare la nostra avanzata. Arrivammo alla base di una scala da pesca perpendicolare e di lunghezza abnorme che si allungava su, su nell'ombra così opprimente e profonda che sembrava che una fossa fosse stata rovesciata sulle nostre teste. Era il molo e il conservificio. Un oggetto ingombrante salì sulla scala e fu inghiottito nel buio. Dopo un secondo, un punto di luce fioca penzolò in alto. Dal velluto nero sotto il molo provenivano respiri freddi e mortali. Sentivo il fango che risucchiava pigramente la base delle palafitte, lo schiocco delle cozze e dei cirripedi, il sibilo e lo schizzo delle vongole. Da molto in alto giunse una voce stizzita: «Forza, muovetevi!» Ci furono quattro starnuti, la lanterna si abbassò a ogni starnuto. «Presto, andate!» disse il mio omino. «L'uomo è pazzo!» Non potevo salire in quel nero vertiginoso. Quella piccola creatura stanca, tutta cappucce e stivali, era una tale torre di forza da abbandonare per una vaga ascesa nera nel nulla. Non potrei strisciare sotto il molo fino alla spiaggia, implorai. Non è possibile. Vada. Il cane? Lui? Vedi? Mentre parlava, la scatola di Ginger mi passò sopra la testa. Che succede laggiù? Sbrigatevi! Gridarono da sopra. Mi aggrappai al freddo e viscido piolo. I miei piedi strisciavano e si incastravano su cose incagliate. Il piolo successivo e quello ancora successivo, infiniti e orribili pioli, sibili e odori che provenivano da sotto il molo. Queste cose erano schifose, ma almeno le potevo toccare. Invece, dietro e intorno c'era il nulla. Ah, sospesa nel vuoto, aggrappata alla scala viscida, fu orribile, oltre ogni dire. Solo un altro piolo. Poi si sarebbe dovuto scavalcare il muro di legno che costeggiava il molo, senza che ci si potesse aggrappare al piolo superiore. L'impatto del mio corpo scaraventato sul pontile mi fece tornare indietro, la mente dal nulla. Sciocca! Perché ha mollato la presa? L'uomo recuperò la lanterna che aveva gettato a terra per afferrarmi mentre mi agitavo. Cercai a tentoni la scatola del cane. Niente stupiva Ginger Pop, nemmeno il fatto che la sua amata padrona fosse stramazzata contro il molo e il capannone alle 3 del mattino in un conservificio dell'estremo nord della Columbia Britannica.